Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Il rumore ambientale è uno dei fattori più rilevanti per la qualità della vita in una data area, così anche per il valore degli immobili. Eppure pochissimi di noi sarebbero in grado di rispondere alla seguente domanda: quanto è rumorosa l'area in cui sorge la propria abitazione? Che attività vi si possono svolgere e quali invece no, perché troppo rumorose? Insomma, avete capito, questa sera ci interrogheremo su quale dovrebbe essere il ruolo delle amministrazioni locali nel gestire il problema dell'inquinamento acustico e nel pianificare di conseguenza le scelte di governo del territorio, ruolo a cui quasi sempre la pubblica amministrazione ha abdicato completamente, con una rilevante eccezione però, quella della regione Toscana che grazie anche all'attività del nostro Gaetano Licitra, che torna a trovarci stasera per la terza volta. Buonasera Licitra. Buonasera Melis. Docente di acustica all'Università di Pisa, membro del Board on Noise europeo, ma soprattutto dirigente dell'ARPA Toscana. Dunque, che cosa dovrebbe fare la pubblica amministrazione che voi avete fatto? Beh, diciamo, la legge italiana dispone già dalla legge quadro, che è del 1995, ma ancor prima con un decreto del 91, la cosiddetta classificazione acustica del territorio. Che cos'è? È la suddivisione del territorio in aree omogenee che consente di ben pianificare le nuove attività industriali, per esempio, oppure i quartieri residenziali. La cosa importante qual è? Cercare di tenere lontane le sorgenti di rumore da quelli che sono i residenti, oppure realizzare delle aree intermedie medie in cui possono convivere attività commerciali e uffici. Diciamo, in Toscana quello che è stato fatto praticamente a tutti i comuni, tranne uno, ci manca solo il comune dell'Abetone, abbiamo questa classificazione. Di fatto il cittadino, andando sul sito della regione toscana, c'è un sistema, un database geografico per cui può andare a vedere qual è il limite di rumore che avrà quando acquisterà quell'abitazione. Non è una garanzia di silenzio, però certo, almeno è certo. Una garanzia che il comune diciamo che il vicino che rumoroso non è contemplato nel database, naturalmente. Senta, certo. Però insomma, intanto è un'informazione che si ha e poi consente di anche pianificare magari il futuro, si spera in senso migliorativo, no? Se pensiamo che le nostre città sono in continuo cambiamento, il legislatore ha pensato bene di correlare il cosiddetto piano strutturale, prima si chiamava piano regolatore, con la classificazione acustica. Quindi puoi cambiare il piano strutturale, puoi cambiare l'urbanistica della tua città, no? Con gli strumenti di governo del territorio, ma devi anche contemporaneamente aggiustare la tua classificazione acustica, perché d'altra parte il rumore è strettamente connesso con la destinazione d'uso del territorio. E quindi ogni volta che il sindaco o comunque l'amministrazione vuole cambiare un'area da residenziale, che ne so, a commerciale, oppure da industriale a residenziale, si deve porre anche questo problema, cioè se è fattibile dal punto di vista acustico. Dunque, abbiamo detto che tutti i comuni della Toscana hanno redatto questo documento PCCA, Piano Comunale di Classificazione Acustica. Qual è invece a livello italiano la situazione? A livello italiano le cose non vanno così bene, perché ci sono comuni che, regioni che sono un po' più avanti, tipicamente nel nord, e invece con qualche più difficoltà nel sud, dove queste percentuali non sono il 90% o il 100%, ma diventano il 20%, il 30%. E quindi questi cittadini non hanno questo strumento che in ogni caso definisce dei limiti, perché ogni zona ha limiti diversi e come tale dà una garanzia in più ai cittadini stessi. C'è qualche grande città che manca clamorosamente? Non ho dati aggiornati, sinceramente, quindi posso dire qualche cosa che è sbagliata, però le città tipo Firenze, Bologna, Milano questa classificazione acustica ce l'hanno, altre non ne ho notizia. D'accordo. Ci stanno lavorando, immagino. Senta, ma cosa bisogna fare per fare questa benedetta classificazione acustica? Bisogna intanto fare delle scelte coraggiose in alcuni casi, perché quando si dice che una certa zona è residenziale, tu lì industrie non ne devi avere. Lei dice che il problema è questo, cioè, perché operativamente cosa bisogna fare? Bisogna mandare in giro un tizio con un rilevatore di rumore, no? Per un po' di tempo. Certamente le misure di rumore ti aiutano, perché ti fanno capire qual è, al di là di quello che c'è scritto, diciamo, nel piano urbanistico, ti dicono quanto rumore c'è, e questo ti guida anche sulla scelta della classe che devi identificare. Però spesso e volentieri sarebbe solo da guardare il piano strutturale e diciamo, verificare che quello che c'è in quella zona è compatibile o meno. Perché infatti cosa succede? Le città sono state costruite in maniera caotica, per cui le abitazioni si sono, diciamo, mischiate moltissimo con le industrie, con le attività più rumorose. Cioè lei dice che questa valutazione non viene fatta perché sennò saltano fuori un sacco di magagne. Andrebbe delocalizzata e questo chiaramente ha dei costi. Grazie Gaetano Licitra. Buonasera, grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.